Salve a tutti e bentornati sull'Arcadia con Radio Big World. Abbiamo detto che il modello del globo in cui siamo cresciuti è sbagliato. Allora vediamo come è quest'altro modello, così da poterlo mettere a confronto. Io ve lo descrivo come lo vedo e lo percepisco a grandi linee, per come è descritta nella Bibbia e nel Corano, quindi andiamo a scoprire. Praticamente è come un cerchio fatto con il compasso su un foglio, dove le terre emerse sono intorno al centro del cerchio, che sarebbe il Polo Nord, e praticamente le acque sono contenute dall'Antartico, il Polo Sud, che è in sintesi una barriera di ghiaccio che ci circonda. Il Sole e la Luna non sono lontani e grandi come ci hanno insegnato, come dicono, ma sono molto molto più vicini e molto più piccoli, e tutto questo è chiuso da una cupola, che sarebbe dove sono fissate le stelle, sarebbe il firmamento, come è descritto nella Bibbia, questa cupola che sembra fatto vetro indistruttibile, descritta. Ma comunque, noi siamo fermi e non ci muoviamo, cioè la Terra è ferma, è un piano fermo che non si muove, e quello che si muove è tutto il resto. Il Sole, la Luna e le stelle, questa cupola che praticamente gira sopra di noi, e per quante volte abbiamo detto sembra che sia il cielo a muoversi, perché è il cielo a muoversi, non siamo noi che ci muoviamo, è quello che osserviamo, è quello che vediamo, è quello che sentiamo, è quello che i nostri sensi ci dicono. Quindi perché non dobbiamo fidarci di quello che ci dice il nostro corpo, la nostra mente? Quindi il Sole e la Luna si muovono in cerchio sopra questo piano, dando anche le stagioni, perché il Sole, facendo un cerchio sopra questo piano, si allontana e si avvicina al Polo Nord, così fa le stagioni. Come possiamo, su alcuni di questi punti, alcuni della Terra piatta sono in disaccordo. Perché sono in disaccordo? Perché qualcuno la prende alla lettera come è descritta nella Bibbia, e altri invece dicono che ci sono altre terre emerse, che praticamente sia un piano infinito, cioè non c'è un sotto e un sopra, c'è solo la terra in tutti e due i modi, sia nella Bibbia che quell'altro modo, è un piano. Però alcuni pensano che questo piano sia come un piano infinito e ci siano altri sistemi fatti come il nostro, cioè con la cupola e un sole che ruota all'interno di questa cupola. Quindi, come possiamo dire che il sole è all'interno e che è più vicino, è più piccolo? Praticamente il sole illumina solo metà terra. Non è che va sotto, va sopra, no, illumina solo metà terra. Da cosa lo possiamo osservare questa cosa? Che il sole è più vicino. Dai raggi solari. I raggi del sole, che quante volte abbiamo guardato quando è nuvolo e c'è il sole, quante volte abbiamo detto guarda bello, sembra che il sole sia dentro le nuvole, perché vediamo tutti i raggi che spuntano, sbucano fuori dalle nuvole. Quei raggi convergono tutti in un punto sulla fonte di luce che fa la luce, e questo ci dice che è vicina, perché se fosse lontano e grande come ci hanno detto, dovrebbero essere tutti perpendicolari, tutti nella solita direzione, non una a destra o una a sinistra. Sarebbe impossibile, no? Solo perché c'è una nuvola e vediamo raggi in quel modo, no? Quale altra cosa possiamo osservare dal sole? Possiamo osservare al tramonto o all'alba che si avvicina e si allontana. Non è che va su o va giù, come nello stesso modo in cui una barca, per la prospettiva, una cosa che si allontana sembra che a un certo punto sembra quasi che salga una rampa che vada verso l'alto, come fa una barca. Se andiamo a vedere una barca che salpa all'orizzonte, vediamo che praticamente si allontana, ma sembra quasi che faccia una salita fino a scomparire all'orizzonte. Non è che va dietro la curvatura, ma è semplicemente per via della prospettiva, a un certo punto non la vediamo più, va fuori il nostro raggio visivo, ma non è che va dietro la curva. Il fatto poi che non la vediamo, che la vediamo sparire a pezzi, è per via della rifrazione che c'è sull'acqua, dell'aria che praticamente fa uno specchio dell'acqua e ci nasconde una parte della... riflette praticamente l'acqua, riflette se stessa e nasconde una parte della barca, e quindi la vediamo abbassarsi piano piano fino a scomparire. Ma un oggetto che si allontana sappiamo che diventa sempre più piccolo fino a scomparire, non è che va dietro nessuna curvatura. E la stessa cosa fa il sole, quindi il sole non scende e sale, ma si allontana e si avvicina, e come ho detto fa dei cerchi più vicini e più lontani dal centro, e in questa maniera sono le stagioni. Sempre riguardo al sole che illumina metà terra, tanti mi hanno detto allora perché non è sempre giorno? Perché se è più vicino, come ci hanno insegnato, se prendiamo una lampadina e la avviciniamo su un tavolo per esempio, non illumina tutto il tavolo, ma illumina solo una parte, quell'altra parte dietro la lampadina rimane buia. E la stessa cosa è con il sole, essendo più piccolo illumina solo una parte, si sposta e c'ha, è come lo yin e lo yang. Non so se avete presente la parte oscura e la parte scura e la parte bianca, più o meno è quello. E queste cose le possiamo verificare semplicemente uscendo di casa o affacciarci alla finestra. Sono semplicissime, non c'è bisogno di una laurea in fisica o in astronomia per rendersi conto di queste semplici cose che abbiamo visto da quando siamo nati, ma ce le hanno fatte vedere in modo diverso, ce le hanno insegnate per farci pensare a un'altra cosa. Quindi, riguardo il movimento della Terra, come diceva anche Einstein, che non è possibile misurare o rilevare con nessuno strumento il movimento della Terra, non è possibile. Quindi noi non lo sentiamo, non lo vediamo, non lo possiamo sentire in nessun modo, però pensiamo che siamo noi a muoversi. Perché non può essere il resto a muoversi? Perché dobbiamo essere noi a muoverci intorno a qualcosa? E quindi questo è importante, perché si ritorna sul fatto religioso, perché siamo noi, perché in questa maniera sulla Terra piatta siamo noi al centro dell'universo, siamo noi l'importante, non siamo una casualità. E questo per me è, secondo me, importante. Non siamo un caso, siamo voluti, siamo al centro di qualcosa creato per tutti. Sembra, ma non è facile spiegare queste cose senza un aiuto grafico, ma comunque non sono qui per fare il professore, ma per darvi un motivo, un impulso a cercare, a farci alcune domande a cui magari non avremmo mai pensato, perché non è tutto solo bianco o nero, ma ci sono anche tante altre tonalità e colori che, se non vengono presi in considerazione, se non li prendiamo in considerazione, non abbiamo un quadro completo, non abbiamo un punto di vista abbastanza aperto da poter fare una nostra verità, da poter creare una nostra verità, un nostro pensiero. Con questo vi saluto, spero di essere riuscito a chiarire qualcosa o comunque a mettere un po' di idee sul tavolo. Grazie a Radio Big World, io sono Gabriele e dall'Arcadia è tutto. Ciao, alla prossima.